voglio capire la percezione del cinese. Allora, a Carpi, dove abito io, ci sono, stanno aprendo, stanno sorgendo come dei funghi, dei sushi bar che io ho sempre pensato fossero posti tradizionali dove si cucina giapponese, cucinato da giapponese. Ah, ecco, bravissimi cinesi a far finta di essere giapponesi. Siccome nessuno va più al ristorante cinese, perché ormai gli attacchi di dissenteria sono stati trasmessi come retaggio biologico, sappiamo nei nostri genitori che è meglio non andarci. Quindi adesso c'è la moda del sushi bar, ma i giapponesi del sushi bar in realtà sono cinesi travestiti da giapponesi, contando sulla nostra ignoranza che non riusciamo a distinguere un cinese da un giapponese. Andiamo dal giapponese, diciamo sayonara e mangiamo il sushi, ma in realtà è un cinese, è vero? Sì, esattamente. Noi siamo traditi dal fatto che hanno tutti gli occhi a mandorla, ma in realtà sono proprio cinesi. Ma la cosa singolare è che si fanno concorrenza tra loro e quindi ogni pasto ha un prezzo diverso. Non so, tu vai lì, ordini sia takeaway sia seduto, il conto alla fine, non so, una volta è 45 euro, tu gli dici no, ma è un po' troppo, 39 va bene? No, 35 via, e ti regalano anche la birra, con il tutto condito con una simpatia, una lega, perché non capiscono una parola di italiano. Io penso capiscano tutto, in realtà sono convinto capiscano tutto e fingono di non capire, perché fa parte dell'essere cinesi.